Siamo con i Davidi del Terzo Segreto di Satira, dalla webserie che appunto fa satira politica al Nicaragua e al Libano. Com'è stato questo passaggio? Beh, sicuramente da un certo punto di vista traumatico, nel senso che è stato un passaggio da, è come passare da due cose estremamente diverse, oggettivamente lo sono. Dall'altro, da noi super interessante, perché abbiamo visto cose davvero che fino a poco prima avevamo visto solo in televisione e poi o neanche e tutte le banalità che uno dice da un certo punto di vista, poi cioè, ci siamo resi conto anche di rischiare di finire spesso nella retorica, però spesso è così, nel senso che è un'esperienza interessante, dei posti totalmente diversi, ed è anche difficile trovare un minimo comune denominatore tra tutti questi viaggi, perché davvero in 5 puntate si affrontano qualsiasi tema, e quindi è molto interessante. Come vedevo dal trailer che non abbiamo visto, però insomma intuivo che avete giocato molto sull'ignoranza su questi temi, vi siete definiti cialtroni. Esatto, questo può aiutare ad allargare la platea di chi appunto magari si può interessare a questi temi? La speranza è quella, noi abbiamo cercato proprio di avere un punto di vista che poi era quello nostro, cioè di persone comuni che si ritrovano a a vedere, a parlare, a cercare di capire insomma dinamiche molto diverse da quelle a cui sono abituate, e quindi la speranza è che questo punto di vista, unito speriamo a un po' di ironia, possa essere proprio un punto di riflessione, un inizio di riflessione per un possibile pubblico che vedrà la serie, che peraltro sarà caricata in canali in cui di solito non ci sono prodotti di questo tipo, in primis il nostro, cioè il nostro canale sarà una delle piattaforme in cui sarà caricato. Siamo curiosi anche noi di come reagirà il nostro le persone che ci seguono, come reagirà questa cosa, perché sono abituati a video totalmente diversi. Qui al Tutti Film Festival vi confronterete appunto su questi linguaggi con lo stato sociale, ve lo chiedo se li conoscete, se vi trovate un'affinità tra il vostro lavoro e loro. Ma sì, li conosciamo, no, l'affinità sicuramente è che anche loro sono 5 e condividono tutto in 5, quindi discutono tanto come discutiamo noi. Poi siamo curiosi di capire cosa faremo giovedì, perché non lo sappiamo, non abbiamo la più pallida idea. È stata un'idea di GVC e quindi siamo curiosi, vediamo. Vediamo. Non sappiamo ancora, improvviseremo.